Europa 24. E un saluto da Anna Migliorate. Bandiera a lutto per tutte le istituzioni europee davanti ai palazzi di Bruxelles per la strage a Nizza. La Francia conti sull'Unione Europea, dice il presidente della Commissione Juncker. Il briefing quotidiano del portavoce della Commissione è cominciato oggi con un minuto di silenzio della sala stampa. Immediatamente dopo sono state abbassate a mezz'asta in segno di lutto tutte le bandiere a 12 stelle dell'Unione Europea, al quartier generale della Commissione, e anche il Parlamento Europeo, poco distante, ha messo a mezz'asta la bandiera dell'Unione e anche quella della Francia. A condannare l'accaduto tutti i vertici europei. È un tragico paradosso che l'obiettivo dell'attacco terroristico a Nizza erano persone che celebravano la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. Così il presidente dell'Unione Europea Donald Tusk da Ulaanbaatar in apertura del 20° vertice ASEM. Oggi tutti noi, Europa e Asia, siamo con il popolo francese e il suo governo, ha aggiunto Tusk. Condanniamo questa tragedia e continuiamo la lotta contro l'estrema violenza e l'odio. Parole riecheggiate anche nel messaggio di cordoglio del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. La Francia può contare sulla Commissione europea così come sugli altri stati dell'Unione europea per continuare a essere sostenuta nella lotta contro il terrorismo, all'interno così come all'esterno dell'Unione. La nostra determinazione, ha sottolineato Juncker, resterà altrettanto ferma che la nostra unità. Il presidente della Commissione ha definito l'attentato un atto vile, dicendosi molto toccato e afflitto dalla terribile prova che ha colpito la città di Nizza in questo giorno di festa nazionale. Dal vertice dell'ASEM anche una dichiarazione congiunta dei leader europei e asiatici. Ribadiamo il nostro impegno per unire le forze per combattere la piaga del terrorismo e la nostra condanna forte e inequivocabile del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, commesse da chiunque, ovunque e per qualsiasi motivo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è probabile che del nuovo attentato in Francia e della questione terrorismo si discuta durante la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea di lunedì prossimo a Bruxelles, oltre che negli incontri che i capi della diplomazia dei 28 avranno la mattina con il segretario di Stato americano John Kerry e il pomeriggio con i rappresentanti dei paesi del Golfo. Non ci sarà invece la tradizionale cena dei ministri di domenica sera prima del Consiglio degli Esteri di lunedì, perché Federica Mogherini, che presiede il Consiglio degli Esteri, incontrerà invece a cena informalmente il neo ministro degli esteri britannico Boris Johnson. Ma una proposta forte arriva in queste ore anche dai membri del Parlamento europeo. L'Unione europea deve avere strumenti militari per proteggere i suoi cittadini dal terrorismo, ha detto il presidente del Partito Popolare Europeo, che è il francese Daul, affermando che il terrore non vincerà né in Francia né in Europa. Per il momento ci fermiamo qui, ancora una buona giornata da Anna Migliorati, gli aggiornamenti su Nizza naturalmente nell'edizione di GR24, l'Europa invece vi aspetta questa sera come sempre, effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.